strane sensazioni che avvolgono la sera, più strane le emozioni di un ricordo in primavera. Da tempo già finita, qualcosa di speciale si è avuta nella vita, si ricorda ed è normale. Tempo andato via insieme a lei, io lo sento ancora e dentro me. Se rimasta sola, io non lo so, ma vive ancora qui nei giorni miei. Succede nella vita, mi è parso di vederla tra la folla poi sparita. Ho creduto di sentire la sua voce in una sera, forse è solo un'emozione, un ritorno in primavera. Dammi la tua mano, sono qui. Un sussurro, vieni via con me. Sono ancora solo, se tu lo vuoi, andremo insieme in fondo ai sogni tuoi. Resta ancora un poco qui con me, adesso non andare, sai perché? Se ti senti sola, con te sarò, mi nascosto dentro i sogni tuoi.